Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Giuseppe Letizia. Paolo Borsellino. Roberto Antiochia. Fabio De Pandi. Rita Atria. Don Giuseppe Diana. Grazia Scimè. Giuseppe. Eccoli qua i nomi, solo alcuni dei nomi delle vittime di mafia. Li state ascoltando in uno spot realizzato da alcuni studenti delle scuole campane in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si sta svolgendo, come sapete, oggi a Napoli. E dovreste saperlo perché se ci state ascoltando da questa mattina stiamo dedicando a questa importante giornata molto spazio attraverso il nostro Radio Day. E non a caso abbiamo voluto cominciare proprio dallo spot delle scuole, non solo perché è bello da ascoltare, ma anche perché ci dà lo spunto per parlare di quanto le scuole siano sensibili sui temi della mafia e più in generale della legalità, temi che ci stanno molto a cuore. Francesca Rispoli si occupa proprio di questo per Libera, di Don Ciotti. Sicuramente le scuole stanno reagendo bene a queste proposte che come Libera facciamo sul tema dell'educazione alla legalità. C'è quindi una sensibilità che sicuramente non va spegnendo. Ecco, una sensibilità che ha una connotazione geografica, cioè lei, secondo lei c'è maggiore sensibilità in quelle regioni storicamente più vicine comunque a mafia, camorra e 'ndrangheta, oppure una sensibilità che c'è anche al nord e che deve esserci anche al nord? No, devo dire che in questi anni abbiamo notato che anzi il nord risponde almeno quanto il sud e in alcuni momenti anche di più del sud. A questo proposito sono interessanti molti lavori fatti dai ragazzi in cui si cerca di attualizzare il problema delle mafie nel proprio contesto, quindi ci si mette anche in discussione e soprattutto si mette in discussione il proprio stile di vita, cioè si va a cercare quando la mafia attraverso i suoi traffici illeciti, attraverso per esempio la contraffazione eccetera, tenta di entrare anche nella vita dell'adolescente del nord Italia che altrimenti non avrebbe occasione di incontrare questo fenomeno. Ecco, gli insegnanti sono preparati a questo lavoro così importante, perché davvero la legalità si deve insegnare dai primi anni di scuola, oppure ci vorrebbe un lavoro maggiore anche di formazione nei loro confronti? È tutto lasciato un po' al caso e all'iniziativa personale? No, c'è sicuramente una grande richiesta da parte degli insegnanti di formazione. Questo significa che sicuramente c'è bisogno di un aiuto maggiore anche da parte del Ministero. Noi oggi viviamo in un mondo in cui gli insegnanti, una volta entrati nel corpo docenti, non vengono più sottoposti a prove. Ecco, questo sicuramente rischia di far sì che poi non ci sia anche il borso del più, come lo chiama il nostro presidente Don Luigi Ciotti, e cioè quella voglia continua di aggiornarsi, di informarsi e di formarsi per far sì che i nostri ragazzi abbiano anche di fronte delle competenze altre rispetto a quelle che sono state acquisite sui banchi dell'università. Certo, è stata ripristinata da quest'anno l'ora di educazione civica, che è anche l'ora di educazione alla legalità, vuole esserlo. È un passo importante questo? È sicuramente un passo importante e non va assolutamente sottovalutato, non va assolutamente snobbato, è uno strumento che deve essere usato nel migliore dei modi, perché come abbiamo imparato negli ultimi anni la parola legalità è una parola che si offre, si presta a molte strumentalizzazioni, quindi sta poi a chi concretamente porterà questi percorsi, quindi svolgerà queste ore di lezione, rimettere al centro della parola legalità il senso profondo di giustizia sociale. Ed eccoli qua allora quelli che lavorano nelle classi tutti i giorni su questi temi, che vanno presentati ai ragazzi prima possibile, già dalle elementari dunque. Come si fa? Ce lo spiega Eugenio Russo, insegnante della scuola elementare del secondo circolo didattico di Quarto in provincia di Napoli. Intanto facciamo capire che la legalità si esplica attraverso piccolissimi gesti, non certamente attraverso azioni eclatanti, rumorose, ma dal comportamento che ognuno di noi deve assumere nel quotidiano, quindi nel semplice sapersi relazionare agli altri e nel senso di responsabilità nei confronti delle cose e degli impegni che ognuno si assume. E proprio per questo motivo abbiamo già da molti anni anni qui sul territorio, ha avviato un bel progetto in rete con le scuole del nostro comune che ha visto la realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. E quando lei parla di camorra, visto che siamo a Napoli, che faccia fanno i ragazzi? Sanno cos'è? Per alcuni è una reazione, un po' di timore, preoccupazione, perché purtroppo i TG parlano sempre di azioni legate a questa triste realtà con la quale molti devono convivere. Però la consapevolezza che mettersi insieme per dire no a tutto questo può dare dei risultati importanti, porta i ragazzini ad interessarsi, a studiare il fenomeno, ad approfondire anche la conoscenza di quelle persone che hanno avuto a che fare con la camorra, e molti di questi ci hanno rimesso la vita e stanno portando avanti un progetto che Libera ci ha proposto, gli sguardi della memoria, adottando delle vittime di mafia e di camorra. Chi avete adottato? Sì, noi abbiamo adottato due in particolare, la nostra scuola è intitolata Paolo Borsellino e i ragazzini hanno adottato Emanuela Loi, una ragazza della scorta di Paolo Borsellino, prima vittima femminile di una strage di camorra. Da Napoli a Scalea, in Calabria, qui siamo alla scuola media Gregorio Caloprese, dove insegna Sabrina Bernardo, e insegna così. Fare legalità come si fa? Cioè, si parte partendo proprio da un esame, no, di quelle che sono le regole del vivere civile già all'interno della scuola, quindi senza andare troppo lontano, partendo proprio da quello che è vicino, facendo con loro anche molta, molta attualità. Noi quest'anno, per esempio a novembre, abbiamo io insieme al consiglio di classe abbiamo deciso di portare i ragazzi a far visita alla cooperativa sociale a Valle del Marro, quindi siamo andate a Libera Terra, proprio per dare la possibilità di far vedere ai ragazzi concretamente che cosa sono le regole e qual è il vantaggio di stare dall'altra parte, quindi di stare dalla parte della legalità. Che cosa hanno visto i ragazzi? Hanno visitato i campi dove i volontari e i ragazzi proprio di Valle del Marro coltivano su quei terreni confiscati alla mafia. Quindi hanno potuto calpestare proprio quei terreni, che per loro è stato un atto simbolico molto molto forte. I ragazzi come rispondono? Sono interessati? Sono distratti? Molto. No, sono molto interessati, soprattutto quando facciamo poche chiacchiere e andiamo ai fatti. Per esempio l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, no? Su mafia e vittime di mafia, io ho dato loro il percorso e ho indicato loro anche guardando alcuni film. Che film ha fatto vedere loro? E abbiamo visto I 100 passi di Peppino, la storia di Peppino Impastato, poi abbiamo visto Falcone e Borsellino. Qual è quello che è piaciuto loro di più? Credo che nel cuore sia rimasto I 100 passi. Ah, poi abbiamo visto anche ultimamente la storia di Don Pino Puglisi, Alla luce del sole, anche quello è rimasto molto molto proprio nel cuore, ragazzi, la storia, soprattutto nella storia di sia di Peppino che di Don Pino Puglisi, ho notato in loro molta rabbia, molta indignazione per l'abbandono, anche quando hanno visto il film di Falcone e Borsellino, l'hanno percepito come una sorta di abbandono da parte di chi poteva aiutarli e in qualche modo non lo ha fatto. Si arrabbiano i ragazzi del sud, ma è giusto che imparino ad arrabbiarsi anche quelli del nord. Qua siamo a Vignola, in provincia di Modena. Alla Primo Levi ci sono un istituto tecnico industriale, un commerciale e un professionale. Loretta Soli insegna lettere e non solo. Da noi è più lontano il concetto di criminalità di tipo mafioso come esperienza di vita quotidiana. Però, insomma, ragionare su queste vicende attraverso molti stimoli, la lettura di certi libri di narrativa, l'incontro con dei testimoni significativi. Noi abbiamo parlato con Don Ciotti, ne abbiamo parlato di doping, di relazioni tra droga e criminalità di tipo mafioso. Senta, per esempio, Gomorra è piaciuto ai suoi ragazzi? Gomorra libro l'hanno letto in pochi. Quelli che l'hanno scelto come hanno reagito? Ma direi bene, anche se c'è questa situazione, lo leggono più volentieri i ragazzi che provengono dal sud. Tra questi ragazzi del sud, che però da anni vivono e studiano a Vignola, c'è Pierpaolo, 15 anni, che oggi è a Napoli a sfilare con gli altri ragazzi nella giornata contro le mafie. Ecco perché ha deciso di partecipare. Essere una delle tante persone che dicono no alla mafia. Ecco, ma tu la mafia l'hai conosciuta a scuola, nel senso ovviamente buono del termine. Quanto ti ha aiutato la scuola a capire, a conoscere la problematica legata al discorso mafioso? La scuola mi ha aiutato molto per questo aspetto, come combatterla, come cercare con i piccoli gesti di debellarla. Tipo? Tipo qui al nord non acquistare sostanze stupefacenti, alimentando così il mercato della droga. Che cos'è secondo te la mafia? Secondo me la mafia è il brutto della nostra società, è quella parte che rosicchia il bene che noi produciamo. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo alle 12.45. Noi continueremo invece nel nostro Radio Day a parlare oggi della giornata contro tutte le mafie in corso a Napoli.